America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Occupy Wall Street ha compiuto un anno e l'ha festeggiato questo anniversario con 100 arresti a New York, con una dimostrazione che ha cercato di riportare, diciamo così, l'attenzione su un movimento che si è un po' affievolito nel corso di quest'ultimo anno, dopo un debutto, devo dire, molto aggressivo, entusiasmante, e dopo un contagio che ha toccato un po' tutte le grandi città di America. Occupy Wall Street si è un po' addormentato. Ecco, gli indignati hanno cercato di contrastare questa accusa che viene un po' da tutte le parti politiche, e cioè che il movimento Occupy Wall Street è stato un fuoco di paglia, era troppo estremo, non ha raccolto l'adesione dei democratici, naturalmente è stato osteggiato dai repubblicani, ha avuto un impatto molto diverso rispetto a un altro movimento popolare cresciuto dal basso, il movimento dei Tea Parties, che invece ha avuto influenza non soltanto nella politica dei repubblicani, ma nelle elezioni. Li abbiamo visti alla convention di Tampa, abbiamo visto personaggi come Marco Rubio eletti sotto la bandiera del Tea Party. Tutto ciò non è successo per Occupy Wall Street, non c'è neanche un candidato a queste elezioni per il Senato e per la Camera. Ricordiamo, non ci sono solo presidenziali a novembre, ci sono anche elezioni per la Camera e per il Senato. E così gli indignati hanno cercato di reagire a questo pericolo di oblio, e lo hanno fatto, come vi dicevo, con una dimostrazione. Hanno cercato di bloccare l'ingresso del New York Stock Exchange, dove la loro avventura è cominciata. L'obiettivo era quello di organizzare un maxi sit-in davanti al New York Stock Exchange, però la polizia era lì pronta ad aspettarli. Le forze dell'ordine hanno transennato la borsa newyorkese, hanno fatto entrare solo i dipendenti e alla fine, nell'arco della giornata, hanno arrestato, vi dicevo, oltre 100 persone, semplicemente perché non avevano rispettato l'ordine dei poliziotti che gli chiedevano di allontanarsi. La coincidenza qual è? Che il movimento spontaneo di Occupy Wall Street è in coincidenza, ma a distanza di pochi giorni, con il quarto anniversario della caduta di Lehman Brothers e dell'inizio ufficiale della crisi. E dunque, al di là di questa manifestazione, che insomma secondo me non ha funzionato molto bene, resta però questa crisi. La crisi resta. L'anniversario di Lehman è un anniversario che abbiamo vissuto, che abbiamo passato con forte preoccupazione, e troviamo riscontro del fatto che questa crisi ci sia, o le conseguenze di quello che è successo allora sono ancora fra noi, in fatti di cronaca. Uno di questi fatti di cronaca riguarda la General Motors, che rischiò di chiudere dopo la crisi del 2008 e che fu salvata dall'amministrazione. Sentiamo. We still have substantial equity investments in both GM and Chrysler. Il segretario al tesoro americano Tim Geithner, lo avete sentito in un'audizione al congresso, dice che insomma la GM, parla anche della Chrysler, ci ha rimborsato il prestito che gli avevamo concesso, però dice è vero che noi abbiamo ancora un'importante partecipazione nel capitale dell'azienda automobilistica e un residuo di quell'intervento di salvataggio che fu fatto appunto subito dopo l'esplosione della crisi del 2008. Ebbene, cosa è successo? È successo che la General Motors, lo abbiamo appreso ieri da indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, ha negoziato con il governo per chiedere l'uscita definitiva dal suo capitale. E il tesoro, che avete sentito, come Geithner ci ha confermato, detiene ancora il 26,5% del pacchetto azionario di Detroit, il tesoro resiste perché a un certo punto, secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, si era trovato un accordo secondo cui GM avrebbe riacquistato 200 dei quasi 500 milioni di titoli che sono ancora in mano al tesoro. Invece il tesoro vuole vendere questa parte che gli resta in mano attraverso un'offerta pubblica. Perché? Come al solito è questione di prezzo, perché se il tesoro vendesse oggi, alla fine il governo perderebbe circa 15 miliardi di dollari, dunque tiene duro. Il tesoro vuole aspettare, ha fiducia nella ripresa dell'economia, ha fiducia nella ripresa del titolo General Motors e vuole aspettare, quantomeno per recuperare il suo investimento, che il titolo arrivi, e dunque non è necessariamente impossibile a $30 per azione. Ovviamente c'è anche una motivazione politica, perché Obama è nel pieno della campagna elettorale. Immaginate voi la Casa Bianca che vende questo pacchetto azionario in perdita, beh, sarebbe sotto attacco incrociato di tutti i repubblicani, soprattutto di Mitt Romney. Però Barack Obama è riuscito lo stesso a intervenire in questo dibattito sull'auto che ieri, devo dire, tra vicende interne e vicende internazionali per un problema con la Cina, ha dominato la giornata dal punto di vista delle analisi aziendali. Sentiamo Barack Obama. Today my administration's launching a new action against China. This one against illegal subsidies that encourage companies to ship auto part manufacturing jobs overseas. Ecco, Barack Obama, lo avete sentito, in comizio in Ohio, ha spiegato perché la sua amministrazione ieri ha fatto un ricorso contro la Cina nel WTO per concorrenza sleale proprio nel settore automobilistico. Il presidente dice: oggi la mia amministrazione, oggi naturalmente vuol dire ieri, ha lanciato una nuova azione contro la Cina, contro sussidi illegali che incoraggiano le aziende del settore auto a delocalizzare. Questi sussidi danneggiano direttamente i lavoratori del settore qui in Ohio, in Michigan e in tutto il Midwest. Noi li fermeremo, non è giusto, è contro le regole e non lasceremo che questo continui. Ecco, e poi ha continuato Obama con un attacco diretto a Mitt Romney. Mitt Romney ha detto, sta andando in giro per l'Ohio dicendo che lui si tirerà sulle maniche, andrà all'offensiva contro la Cina, ma lui ha fatto la sua carriera in aziende che sono note per essere state pioniere della delocalizzazione in paesi come la Cina. Lui si è arricchito in società che hanno lasciato gli Stati Uniti per la Cina. Ecco, qual è l'oggetto del contendere? Secondo gli Stati Uniti la Cina avrebbe dato fino a $1 miliardo agli esportatori di auto tra il 2009 e il 2011, danneggiando le aziende americane. Quindi il Made in America torna al centro del dibattito elettorale. E beh, io sospetto che, chissà, forse Obama nel portare con questo tempismo un'azione contro la Cina al WTO aveva probabilmente in mente un attacco contro Mitt Romney. Sentiamo Romney. My plan is to help the middle class. Trade has to work for America. That means crack down on cheaters like China. It means open up new markets. Romney, vi diceva, ha reagito, si accorge che dal punto di vista economico comincia a perdere un po' di terreno e ha detto che rivelerà nuovi dettagli del suo piano economico, un piano economico che dovrebbe aiutare la classe media a recuperare. E l'ex governatore del Massachusetts renderà noti questi dettagli del piano in 5 punti annunciato alla convention repubblicana di Tampa, un piano che aveva 5 punti, devo dire, molto molto miseri. Li annuncerà subito prima il dibattito presidenziale del 3 ottobre che si terrà a Denver. Il punto chiave centrale di questo piano è creare 12 milioni di posti di lavoro in 8 anni. Obama ne promette 4 milioni di posti di lavoro nei prossimi 4 anni. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo all'anniversario di Occupy Wall Street. La crisi domina, la crisi è nelle cronache, nella campagna elettorale e nel settore automobilistico. E dunque questo anniversario è stato corredato da un concerto dove si è esibito anche Tom Morello, che è uno dei musicisti che ha sostenuto questo movimento fin dall'inizio. Ha cantato The Ghost of Tom Jones. Men walking along the railroad tracks, gone some places, no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light,